Dopo il grande successo del microfono che scotta e la sola dell'avvenire, finalmente in onda su queste frequenze. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa, non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Parola per te! Con la partecipazione di Santa Milva Daceri e il premio Nobel di Femminismo e Pratica, io voglio praticare Zarina. Sponsored by Big Mama Simona and Francisca. Autonarrazione. Parla per te. Esperienze. Parla per te. Racconti. Parla per te. Voci. E parla per te. Vite e miracoli. Parla per te. Lavori, sogni e bisogni. Parla per te. Impegni, impicci e capricci. Parola per te! La campagna a piedi nudi. Roma è comunque una città che in qualche modo, anche in maniera perversa, ti accoglie e ti trattiene. Londra è una città in cui, se vuoi, puoi fare, nel senso, se ti sai adattare a qualsiasi cosa, perché poi io in realtà la seconda esperienza che ho fatto è stata 2 anni fa, all'età di 24 anni, e ho fatto diversi tipi di lavoro e mi sono tranquillamente anche adattata a fare la lavapiatti e la glass collector, che è appunto un lavoro, è un lavoro maschile. Ero stata la prima ragazza in quel pub a fare la glass collector, l'ho fatto con entusiasmo, ma pensando appunto di farlo in un periodo comunque limitato della mia vita, perché io non posso pensare che la mia aspirazione sia poi diventare la manager di un pub o la manager di un ristorante, che è l'esito conseguenziale della maggior parte degli italiani che vanno all'estero, che appunto lavorano in determinati tipi di ambito, che appunto è quello comunque del ristoranti, pub, oppure negozi, eccetera, eccetera. Cioè, non potendo stare né al bancone, perché comunque cioè, lì parlano lo slang appunto di Londra. Comunque, a parte nel pub dove lavoravo, era un pub che era un bar innanzitutto. I bar a Londra sono aperti fino alle 2. Solitamente, oddio, no, se non erro, i pub normali invece hanno un orario più limitato, chiudono prima. Facevano sound system, facevano disco, facevano appunto concerti dal vivo, era figo, comunque gestito da un napoletano che proveniva da tutta l'entourage dei 99 posse, aveva collaborato con lui, era pure una persona insomma abbastanza carina, insomma, gentile con me, però non, comunque non mi poteva mettere dietro al bancone. Quindi ho iniziato a... io raccoglievo i bicchieri, però quel pub era un, quel bar era un bar assurdo, nel senso che poi a mezzanotte trovavi gente veramente, non avevi neanche modo di entrare, di passare tra le persone, perché era una manica di embriaghi, cioè gente che si denudava, veramente cose simpatiche. Però comunque è stato un lavoro molto pesante, cioè nel senso che comunque mi facevo un bucio di culo pesante. Vivevo in un diciamo in subaffitto, così non, pagavo, io pagavo pochissimo, pagavo 40 sterline a settimana, che niente, e in una doppia che però, cioè io stavo in una specie di... era un ex praticamente magazzino, tipo magazzino al piano superiore di un bar, e stavo con i lucchetti alle porte, avevamo un bagno di mezzo metro per un metro e mezzo e la doccia in cucina. Era una situazione abbastanza diciamo così precaria, che poteva anche essere stimolante e divertente, perché comunque aspetto che il giorno finisca sulle valli aperte, sui fossi d'ortica, mentre il silenzio dei grilli e del grano copre il boato di un mondo lontano, lontano. I soldi riuscivo diciamo a fare tutto comunque, nel senso che poi avevo un budget di, ovviamente non chiedendo i soldi ai miei, avevo un budget, i miei non sapevano la situazione comunque che c'avevo sopra, vivevo con un budget per mangiare 3 sterline al giorno, perché poi lì ovviamente c'è anche un diciamo un ritmo nel frequentare pub, lì la maggior parte dei soldi li investi ovviamente nel bere, fondamentalmente, perché il ritmo di vita è un ritmo assurdo, cioè c'è dei ritmi elevatissimi, cioè devi concentrare tutto dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio, quella è la giornata, cioè una giornata molto più breve però con ritmi veloci. Poi comunque lavoravo, dovevo gestire un sacco di cose e così, quindi mi pagavano, al bar mi pagavano, lo sai che non me lo ricordo, aspetta, mi pagavano bene. Comunque, perché lì fai un botto di mance, cioè qui non abbiamo la cultura, ultimamente, cioè io dopo tornando mi sono resa conto che ultimamente c'hai, cioè, la cosa di andare al pub e lasciare, io prima non ce l'avevo sinceramente di lasciare la mancia, cioè magari al ristorante o in pizzeria ti viene, al pub non mi veniva, ma comunque è una cosa... Quindi comunque tra le mance e comunque la paga che era settimanale riuscivo a vivere bene, riuscivo a vivere con entusiasmo, perché poi c'è 2 miliardi di input lì, anche pur con la convinzione, anche vivendo là, che era una città nella quale non potevo comunque rimanere, perché non seduto se qualcuno. proprio, cioè, il lavoro prima di ogni cosa, e comunque è una città che in qualche modo cioè rimane lì per mesi e mesi, non sa neanche, a un certo punto forse non sa neanche più perché, nel senso che lavori, è così fondamentalmente, almeno l'esperienza mia. Probabilmente se fossi partita con un obiettivo rispetto a quello che volevo fare, o rispetto alle mie passioni, a quello per cui comunque studio, fossi stata più determinata, però nell'ambiente, comunque fondamentalmente nell'ambiente di, appunto, degli italiani che poi vanno a vivere là, che principalmente fanno essere determinati tipi di lavoro, senza, cioè io parlo a livello di una qualifica specializzata. Vado via, vado via, di lavoro delle italiane, tipico università, perché nelle università in cui io sto appoggiata ci sono due quarantenni che insegnano pianificazione, e una già lecturer, l'altra sta finendo il dottorato, ma insomma lavora, e quindi con prospettive anche di prendere, cioè un settore in completa espansione, anche se mantenuto coi soldi del terzo mondo che paga delle tasse universitarie pazzesche per studiare a Londra, pagano quattro volte quanto gli europei. Hanno le tasse differenziate per nazionalità, hanno tasse per europei, tasse per inglesi, tasse per irlandesi, tasse per europei e tasse per overseas. E quindi gli italiani pagano come gli europei, pagheranno sui 3, 5, 4 l'anno, 4.000 sterline, che sono sì, circa 4.000 euro, diciamo. Ora. Gli overseas pagano 4 volte tanto. E quindi c'è questa grande domanda, cioè hanno, come dire, trasformato la formazione universitaria in mercato e vendono formazione a tutto il mondo, con gente di tutto il mondo che va a fare lì, o dal primo livello al master al dottorato, paga queste tasse anche molto alte, e in particolare poi alla fine prendono quasi tutti quanti cinesi ricchi, almeno questo così mi hanno raccontato, che i cinesi sono la fonte di guadagno principale, però questa cosa permette di assumere persone, avere anche contratti anche per dottorandi che collaborano con i vari corsi, tutti quanti sono pagati, tutti quanti sono in regola. E poi invece un altro settore di lavoro è quello dell'ingegneria civile, che è di tutti gli europei più gli australiani, cioè tutti gli uffici tecnici pubblici, comunali, di livello più alto, sono in mano a stranieri, europei e australiani, perché gli inglesi non hanno, cioè appresi dal trip della finanza, non hanno più studiato questo tipo di ingegneria, e quindi non hanno proprio la nozione di ingegneria pubblica, per cui c'è una, ho conosciuto una geotecnica che lavora lì per il, la metropolitana, un mio ex studente ambiente e territorio lavora da 5 anni nel settore dei rifiuti in vari enti pubblici o anche no profit. E questi due nuovi ragazzi che sono arrivati adesso sì, vanno su quel settore, perché su quel settore gli italiani funzionano, italiani, tedeschi, appunto, qua, cioè, mi hanno raccontato che in quasi tutti questi uffici il capo ufficio è australiano, perché ovviamente è facilitato dalla lingua, e poi gli altri sono comunque ingegneri europei. Diciamo che questa cosa dell'Inghilterra è comunque una cosa che funziona. L'altro paese in cui si inseriscono molto facilmente è il Canada, però appunto sto parlando di persone che hanno formazione da ingegnere, ingegnere ambientale, e se no, se no, adesso una per esempio che lavora per le Nazioni Unite in Indonesia sul rischio idraulico, che è riuscita a entrare appunto nel settore della, della cooperazione, dello sviluppo, e sì, vanno fuori perché, cioè, gli viene riconosciuta la professionalità e fanno dei lavori che sono interessanti. Adesso non so quanto dureranno, ecco, non riesco a capire nel lungo termine se poi questa cosa è una cosa molto gratificante quando sono giovane, cioè una ragazza della ingegneria che ha 24 anni con 110 lode, è come se fosse, se no gli fanno battere a macchina qualche cosa, cioè gli fa fare la tevedaria da qualche parte, no? Quello che c'è a Londra è che non c'è differenza fra età, che veramente sto notando che almeno nel livello universitario, tecnico, le persone qualsiasi età hanno, se hanno la qualificazione, sono pronti, vecchi, grandi, non gliene importa niente a nessuno di quanti anni hai, sembra tutto quanto una cosa senza età, invece conta molto il colore, molto. Infatti non è un caso che c'è europei e poi tra gli overseas sono proprio tutti cinesi, non sono ancora riuscito a vedere un nero a un convegno, neanche tra il pubblico, finora all'università tutti i portieri sono giamaicani, punto, no, non riesci a vedere uno colored neanche per scherzo. I'm Sicuramente i problemi ci stanno, perché questo qua è un problema di tutto il mondo, però appunto sto parlando di due ragazze, due donne giovani arrivate a Londra che insegnano all'università, che da noi è una cosa inesistente quasi, e cioè non hanno, vuol dire, non è che hanno dovuto competere con degli uomini, cioè io insomma da che mi ricordo da noi appunto in 20 anni di donne praticamente non ne sono quasi entrate, e da quando c'è la crisi, c'è la restrizione delle assunzioni, ancora meno, nonostante i dottorandi sono quasi tutti donne, dopo non ne passa uno nei concorsi, perché da noi c'è il sessismo vero, proprio da quasi da goliardia, quasi da avere, no, dei... Con le donne si parla di una cosa, con l'uomo si parla di un'altra, una donna chiedila di fare le fotocopie, all'uomo chiedi di andare a studiare a un convegno, tra anche rispetto a ragazzi che possono avere appunto 27-28 anni, quindi le ragazze tendono molto infatti ad andare più che in situazioni dove potrebbero trovare cose analoghe, o temono trovare cose analoghe a quelle italiane, andare nel campo internazionale, dove in qualche modo nel campo dello sviluppo, se tu sei una donna occidentale, sei comunque favorita rispetto a questo fatto, passa un po' in secondo ordine, e c'è anche, e ci sono anche una serie di come dire, politiche, discriminazione positiva, tanta, negli organismi delle Nazioni Unite, per cui hai buone in qualsiasi concorso tu faccia, se sei donna parità di merito passi tu, per cui c'è la facoltà di ingegneria più femminile d'Italia, e che quindi fa, mi pare, 27% di studentesse e 18% di docenti donne, e però appunto è assolutamente la facoltà, che è anche molto grande, ed è la facoltà più femminile d'Italia, se no la media è massimo 20, proprio a dire tanto, di ragazze su 20%, e sulle docenti in alcune facoltà scendi a zero, ma insomma sai, sull'ordine che... Cioè, nel senso che invece a medicina, che è una facoltà scientifica, anche quella è abbastanza tecnica, comunque insomma le donne sono tantissime, a fisica, matematica, chimica, biologia, non è affatto vero che non ci sono, cioè le donne sono tante, il problema è sulle facoltà tecniche, e quindi sicuramente ingegneria e poi che altro anche economia, ecco, almeno su con i filoni. Cioè, ci sono delle facoltà che ancora, architettura per esempio è stranissima, perché c'ha a Roma il 70% di studentesse, e invece tra le docenti non vanno oltre il 30%, quindi l'architettura, che è stata una facoltà frequentata da donne da sempre, comunque nel e il massimo è giurisprudenza a Roma, dove le donne sarebbero l'80% degli studenti da sempre, e in questo momento, che è un caso storico di cui si stanno vantando, esiste finalmente una docente donna, una, e quando gli è stato detto al preside ultimamente questo fatto, ha detto: come, invece di dirci bravi perché siamo riusciti ad arrivare a una, cioè, l'amministrazione ce ne sono tante. Per esempio in regione, nel settore agricoltura, che è un settore che ha tantissimo personale, e mi pare hanno 400 persone, nel settore, perché è un settore assolutamente di grandi contributi, da 15, cioè, insomma, c'è veramente tanto. Le dirigenti donne sono tante e sono quasi tutte quante agronome, E lo stesso, che ne so, la provincia, ci sono molte tecniche, ingegneri, architetti, che sono donne, biologhe, quindi nel pubblico, cioè non c'è dubbio che nell'amministrazione pubblica le donne sono meno discriminate, nel privato è disastroso. Alcune studentesse sono andate in Australia dopo aver provato a fare qui direzione di cantiere, progetti e cose, sono andate in Australia e in Australia stanno bene, a quelle non devono neanche imparare l'inglese perché in tutto lo studio parlano tutti quanti italiano. Cosa chiedere